24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Buonasera, ho 26 anni, sono nato e cresciuto a Firenze e da come parlo, dal mio accento, avrete capito che questa è la mia città. Mi chiamo Said Mahran e sono italiano, come voi. Chi volete mangiare? Signora, dobbiamo sapere se siete buoni per entrare nel nuovo mondo. E bassia siete, nome del Dio. Signora, se vuole entrare negli stati del nuovo mondo deve accettare le sue regole, per cui si sieda e faccia l'esame, se no la rimpatriamo. Allora facciamo così, io non torno a casa, resto qui perché sono libero. Quando avete fatto l'ultimo rinnovo del permesso di soggiorno? 2 anni fa. E mi prendono, mi sbattono fuori da questo paese! Non ho documenti, non ho diritti, non ho niente! A quante cose dobbiamo ancora rinunciare? A quante possibilità? A quante prospettive? A quanti sogni? Noi, ragazzi della seconda generazione, italiani di seconda categoria, non italiani. Lucia Tria, magistrato della Corte di Cassazione, ha scritto molti libri, tra cui Ius Soli, Ius Sanguinis, l'acquisto della cittadinanza in Italia e in Europa. Ecco, dottoressa Tria, Ius Soli o Ius Sanguinis? Può spiegarci la differenza sinteticamente? Schematicamente si può dire che nel caso dello ius sanguinis l'elemento da cui dipende l'acquisto della cittadinanza è il rapporto di sangue con il genitore, certo. Nel senso che il genitore o i genitori trasmettono la propria cittadinanza ai figli automaticamente al momento della loro nascita in qualunque luogo del mondo avvenga. Bene. Nel caso invece dello ius soli l'elemento da cui dipende l'acquisto della cittadinanza è il luogo in cui si nasce, cioè si diventa cittadini per nascita nel territorio dello Stato in cui ci si trova in quel momento. Ecco, in Italia com'è? Ecco, in Italia però questo è lo ius soli integrale, sì. In tutti i paesi europei vige invece uno ius soli temperato. In Italia il sistema principale è lo ius sanguinis, in casi marginali si applica anche lo ius soli. A questi sistemi poi si aggiungono altri sistemi che sono l'acquisto della cittadinanza per residenza e per matrimonio con un cittadino o una cittadina italiana. Ecco, ma in pratica io cittadino straniero che arrivo in Italia, cosa devo fare per ottenere la cittadinanza? Allora, diciamo subito che l'Italia in ambito europeo rientra tra i paesi che hanno la normativa più severa per l'attribuzione della cittadinanza agli stranieri. Le due vie regolari più praticate per l'acquisto della cittadinanza sono il matrimonio e la residenza. Per il matrimonio basta che semplicemente che uno straniero sposi un cittadino o una cittadina italiana e diventa italiano. Che diventa italiano dopo un certo periodo di convivenza, sì. Però. Sì. E invece nel caso della residenza bisogna distinguere le varie categorie di stranieri, perché per i cittadini degli stati dell'Unione Europea o per gli apolidi oppure per i rifugiati il periodo di residenza è normalmente inferiore, cioè 4 o 5 anni bastano per gli altri... residenza legale, mentre per i cittadini degli stati extra Unione Europea il periodo di residenza legale è di 10 anni. Ecco, e per i miei figli soli, e per i miei anche figli lo ius soli, che si applica allo straniero che è nato in Italia, che vi ha risieduto per 10 anni e che deve chiedere la cittadinanza entro il 19° anno di età. E i miei figli? E i figli, quando il cittadino il cittadino straniero è naturalizzato, cioè è diventato cittadino italiano, si applicano ai figli il sistema dello ius sanguinis, ecco, quindi diventano automaticamente cittadini italiani. Ecco, Renzi dice: concediamo la cittadinanza ai nati in Italia che abbiano completato almeno un ciclo scolastico, è una soluzione temperata, va bene? Guardi, secondo me potrebbe andare, nel senso che si parla di iure culture, cioè per cultura, no? L'acquisto per cultura, cioè alla fine di un ciclo scolastico, però si dice anche, a quello che io ho letto, in favore di figli di genitori lungo residenti. Quindi questo significa che i genitori o sono titolari di un permesso di soggiorno lungo soggiornanti dell'Unione Europea che è a tempo indeterminato e presuppone che siano in Italia da almeno 5 anni, o oppure hanno lo status di rifugiato o di apolide. Certo, quindi sono situazioni dei genitori che comunque escludono la possibilità di un'espulsione, ecco, anche ma... perché comunque questo sarebbe vietato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Ecco, ma i figli non trasmettono la cittadinanza ai genitori, perché lo ius sanguinis è per discendenza, non per ascendenza. Ah, cioè, quindi insomma loro possono essere italiani e i genitori può darsi di no, possono restare stranieri. Sì, con gli altri meccanismi. Ecco, senta, ma negli altri paesi qual è il modo in cui è stato affrontato meglio, secondo lei, questo problema? Ma guardi, il discorso è molto variegato. Diciamo che nella maggior parte dei paesi, sempre dell'Unione Europea, la modalità di acquisto più frequente è lo ius sanguinis. Sì. Poi, per quanto riguarda lo ius soli, che è comunque previsto più o meno in tutti i paesi, ci sono diversità per quanto riguarda la rigidità delle condizioni ulteriori che sono chieste, perché abbiamo detto che in Europa non funziona mai lo ius soli integrale, ci sono solo la nascita. Varianti. Allora, in Svizzera, per esempio, sulla carta c'è lo ius soli, ma le condizioni sono talmente difficili che di fatto è come se non ci fosse. Ecco, ma scusi, dottoressa, ma un giusto equilibrio, per finire, un giusto equilibrio tra le diverse esigenze dei cittadini e degli immigrati. Secondo lei, qual è il punto d'equilibrio? Di equilibrio è che noi dobbiamo fare in modo che l'immigrazione sia un'opportunità. Questo lo dicono gli economisti dell'UEF di Davos, lo dice anche il Consiglio dell'Unione Europea. Allora, perché questo accada è necessario cambiare ottica e cercare di puntare su un'immigrazione sostenibile e condivisa anche tra gli Stati europei e che, diciamo, sia anche in qualche modo vada incontro ai desideri dell'immigrato, no? Che spesso e volentieri è una vittima, è un immigrato forzato, certo, deve scappare da guerra, eccetera. Allora, un piccolo ampliamento della possibilità di naturalizzazione, cioè della possibilità di ottenere la cittadinanza anche iure soli o per residenza, ma molto calibrato e con quelle condizioni che abbiamo detto, con una normativa molto chiara, può anche essere uno strumento utile anche ai fini proprio che corrisponde al principio democratico in cui tutti ci riconosciamo, anche perché se uno diventa cittadino di uno Stato acquista dei diritti ma anche dei doveri nei confronti di quello Stato, naturalmente. E quindi d'altra parte il discorso dell'identità nazionale, anche quello, cioè noi non dobbiamo dimenticare che la storia del nostro paese e del nostro continente è una storia di migrazione continua, naturalmente. 800240024, numero verde 349-238-6666, sms. Quanto tempo deve passare per la cittadinanza di un immigrante? Quali sono le regole per entrare in questo paese? Quindi la cittadinanza per diritto di nascita, sono tutte cose che vanno discusse bene. E una volta discusse si informano i cittadini italiani e poi si fa un voto di referendario. Noi siamo assolutamente d'accordo a questo riguardo, riteniamo che dare la cittadinanza a qualcuno, figlio di stranieri, che però vivono in Italia, sia addirittura doveroso quando questa persona è stata allieva di un ciclo scolastico. Il tema è... I diritti civili significa che il bambino che ha frequentato un corso scolastico, fai conto i 5 anni delle elementari o i 3 anni delle medie, e che è nato in Italia e cresciuto in Italia, deve diventare italiano. Ecco, erano Berlusconi, Renzi, Grillo e Renzi. Onorevole Matteo Salvini, buongiorno. Lei è l'alfiere della battaglia contro l'introduzione dello ius soli temperato per ottenere la cittadinanza. Anzi, ha affermato di essere totalmente contrario a dare la cittadinanza agli immigrati. Perché? Perché l'equilibrio dei diritti e dei doveri in questo momento mi dice che bisogna puntare di più sui doveri, nel senso che sono i cittadini italiani in questo momento a soffrire di più da tutti i punti di vista, assegnazione delle case popolari, contributi pubblici, assegni. Pensiamo solo al fatto che gli immigrati sopra i 65 anni che si ricongiungono con dei loro parenti in Italia, mettono piede in Italia, hanno diritto alla pensione sociale subito, sì. che mi sembra una follia priva di qualsiasi senso, giustizia, equità e fondamento. Quindi, Prego. Il mio desiderio è di vivere in serenità e se ci sono diritti squilibrati da una parte rispetto all'altra, la serenità non la ottieni. Però lei ha detto, però onorevole Salvini, scusi, lei ha detto anche siamo noi gli immigrati in casa nostra, siamo ancora noi contro loro, noi contro loro, sempre lì siamo. No, se a Milano il 65% delle case popolari quest'anno è assegnato a cittadini stranieri, è un contributo all'integrazione, alla convivenza pacifica, serena nei quartieri? No, perché la presenza straniera a Milano è del 15% e quindi non puoi avere il 65% di case popolari assegnate a chi rappresenta il 15%. Però stiamo facendo un discorso sulle regole, su diritti e doveri, però anche diritti. Manca qualcosa a quei bimbi che sono in classe con dei bimbi italiani a 18 anni, consapevolmente, maturamente, possono decidere se mantenere, come in molti casi fanno, la loro cittadinanza orgogliosamente o diventare cittadini italiani. Manca qualcosa a quelle famiglie? Ecco, però gli immigrati, secondo lei, sembra che siano solo un onere e non una potenziale risorsa, e soprattutto nelle terre che lei rappresenta, in realtà poi sono per davvero una grande risorsa. Quindi il problema è regolamentarlo, il problema è regolamentare. Gli immigrati regolari sono miei fratelli. Noi abbiamo nominato responsabile del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega Nord una persona che è arrivata dalla Nigeria. Ecco, fatto il suo corso di studio, adesso appunto, è piccolo imprenditore rispettando le regole. Ecco. Il problema è che molti le regole non le rispettano. E in Italia. Ma stiamo parlando di regole niente. In questo momento. In questo momento stiamo parlando delle regole da darsi per avere poi dei criteri univoci. Ecco, se un figlio di immigrato nasce in Italia, studia in Italia, entra a far parte della società nazionale, perché non dovrebbe avere il diritto di cittadinanza? A 18 anni, come prevede la legge, può avere tutti i diritti che vuole. Ecco, quindi non lei... mi bastano 5 anni di scuola elementari. Ci sono esempi di presunta o finta integrazione, purtroppo in Italia e in giro per il mondo, che mi dicono che io, da questo punto di vista, la norma che vige da decenni non la tocco. Non mi sembra il momento in cui accelerare, anzi, sentivo l'interessante intervista che avete mandato prima, mi sembra il momento in cui discutere seriamente di selezionare, qualificare, regolare l'immigrazione. Compi 18 anni, fai quello che vuoi, a scuola con mio figlio fa le medie in una scuola pubblica. Ci sono bambini stranieri, ci sono bambini cinesi, ci sono bambini nordafricani, ci sono bambini dell'est con le loro nazionalità. Hanno qualcosa in più o in meno rispetto a mio figlio? No. Vanno a scuola con mio figlio? Sì. Giocano a pallone con mio figlio? Sì. Vanno in gita con mio figlio? Sì. Mangiano la merenda con mio figlio? Sì. Al compimento del 18° anno sceglieranno se rimanere cittadini cinesi, cittadini marocchini o cittadini dell'est o diventare cittadini italiani. Non vedo la necessità di questa accelerazione. Onorevole Salvini, lei è contrario quindi in linea di principio all'introduzione dello ius soli, oppure lo accetterebbe temperato da qualche condizione? No, in questo momento lo ritengo inutile se non dannoso come messaggio. Quindi io questa normativa in questo momento non la toccherei. Quindi con Renzi... non c'è margine di mediazione, secondo lei? Poi guardi, sfido uno qualunque degli ascoltatori sintonizzati in questo momento su Radio 24, anche stranieri regolari, che ripeto, sono miei fratelli come quelli nati a Milano da generazioni milanesi, che mi dica che in questo momento l'Italia di questo ha bisogno, questa è un'emergenza, questa è una necessità, questo sentono come necessità. Non ce n'è manco uno, un dibattito politico per gettare fumo negli occhi. E quindi non ci sono condizioni minime che lei ritirrebbe accettabili? No, ma anche perché poi anche l'informazione fa la sua parte, questa è una bella trasmissione approfondita, ma i presunti profughi siriani, se uno guarda il telegiornale sono tutti siriani quelli che stanno sbarcando, io ho guardato i dati, lei sa quanti sono i siriani che hanno fatto domanda di asilo politico in tutto il 2014 in Italia? 405. Se io guardassi i telegiornali ci sono decine di migliaia di siriani ovunque in giro, 405. Senta, onorevole Salvini, con Berlusconi è tutto finito? Spero di no, se però tutti guardiamo avanti. Non mi piace la nostalgia, il ripensare a formule vecchie. Formule però insomma passate. Non è tutto finito. No, si vota in primavera? I progetti no, secondo me si vota in primavera perché tutti i dati economici, come mi insegna Radio 24, stanno condannando il governo Renzi, che può promettere tante cose, ma quando disoccupazione, prodotto interno lordo. Vabbè, insomma, si vota in primavera, secondo lei. Il tavolo, altri tre nemici, dice non mi fanno governare, e proverà a fare e li trova in Europa i nemici, li trova in Europa? Ma li trova, beh, in Europa, lui è al servizio dell'Europa, lui alza la voce ma poi viene a Bruxelles a prendere i compitini e li porta a casa silenzioso. Senta, c'è Mario, noi saremo pronti in primavera. C'è Mario Secchi pronti, che le vuole fare una domanda e poi Pietrangelo Buttafuoco. Buongiorno Salvini. Buongiorno. Ritiene possibile fare le primarie nel centrodestra per scegliere il prossimo candidato premier quando sarà? Ah, lo riterei assolutamente utile. E lei correrà? Basta che ci sia prima un programma comune. Ecco, le primarie senza un programma, ad esempio, come pensa Berlusconi sui matrimoni gay, sullo ius soli, sulla Merkel, sulla Turchia in Europa? Capisci che se uno mi difende l'euro, che va bene, quindi prima il programma, poi le primarie, prima i programmi e poi le primarie. E poi devono essere coinvolti i cittadini, gli italiani, sono assolutamente d'accordo. Buttafuoco, rapidissimo. Sì, una domanda, buongiorno, ma Giorgia Meloni cosa farà? Non si è capito, si candida a Roma e libera questa città da Marino? Ma io ogni volta che vengo a Roma, ci sarò anche stasera, con chiunque parli mi dicono che è meglio un cittadino romano estratto a sorte dalla guida telefonica rispetto a Marino. Quindi se fosse Giorgia Meloni sarei solo contento, perché mi sembra persona in gamba. Detto questo, anche a livello di elezioni comunali penso che siano i cittadini a Roma come a Milano a dover scegliere. Ma lo trovo un dato politico, nel senso, finalmente si libera dalla gabbia di Fratelli d'Italia. Può darsi che la pioggia di oggi risolva tanti problemi. Sa che non si riuniscono né la direzione del PD né quella di Forza Italia perché piove. Il paese sarà angosciato. Va bene, grazie. No, grazie. Scusa, ma com'è che quelli non si riuniscono e noi invece siamo qui? Dobbiamo guardare per vivere. Andiamo a metro. Grazie, onorevole Salvini. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Per favore, signore e signora, alzate il volume a casa. Sono il dottore. Risolvi un crimine, Sherlock. Il vincitore, il grande fratello, è... L'unica verità che conoscete è quella che ricevete alla TV attualmente. C'è da noi un'intera generazione che non ha mai saputo niente che non fosse trasmesso alla TV. Ha tanti amici, 300... Perché? Perché? Perché la timpa, ecco perché. Daniele Doglio, professore di economia dei media all'Università Cattolica di Milano. La Disney considera inadeguata la qualità della televisione dei ragazzi italiani e l'autorità garante ha esonerato la Disney da investire il 10% dei suoi introiti nei prodotti italiani come dovrebbe fare per legge. Cioè facciamo, secondo l'autorità garante, brutti prodotti. La Disney lo dice e l'autorità lo ratifica. Professor Doglio, siamo lì? Diciamo che la cosa ovviamente è molto complicata, ci sono delle questioni burocratiche, pare che chi doveva rappresentare gli interessi dell'industria dell'animazione italiana non si sia presentata alle audizioni. Addirittura. Sembra un po' ridicolo. Però effettivamente diciamo che il quadro della produzione italiana per ragazzi non è che sia poi così strepitoso. Ecco, anni di acquisti questo fanno. Ecco, ma la TV dei ragazzi non dovrebbe essere uno specifico del servizio pubblico? Dovrebbe esserlo, sì, però anche qui probabilmente in Italia c'è un'eccessiva presenza di offerta, troppi canali per bambini. La Rai stessa ne ha due e non è sarebbe meglio averne uno più prodotto. Sarebbe meglio avere un Kinder Canal come in Germania, che però fa un prodotto di qualità elevata. Poi la Disney ha problemi competitivi, se la vedrà sul mercato. Certo. Insomma. Senta, nell'audiovisivo comunque gli europei calano del quasi 5%, gli americani aumentano di 9 punti. Vuol dire che siamo sempre più colonizzati come prodotto televisivo? Da un certo punto di vista tutto il lavoro che l'Unione Europea ha cercato di fare a partire dall'89 con la famosa direttiva sulla televisione sulla frontiera non ha prodotto quel cambio nell'interscambio tra Europa e Stati Uniti che si pensava potesse produrre. Però sarebbe sbagliato anche dire che non è servito a niente. A cosa è servito? È servito per esempio a rendere più forti e più consistenti dal punto di vista qualitativo le televisioni europee, non a caso, come lei sa, c'è un trend in corso in cui gli americani ci guardano come mercato, ma stanno anche comprando non solo i nostri prodotti, i nostri formati, ma anche le nostre televisioni. La produzione americana occupa il 52% del mercato europeo, noi solo l'8% di quello americano. Però appunto, come dice lei, loro comprano i nostri format, cioè comprano i nostri format e ce li rivendono? In un certo senso, paradossalmente sì, ci sono dei casi famosi, no, di format di origine danese o inglese che sono stati poi riformattati dagli Stati Uniti e noi ce li godiamo tranquillamente. Per esempio? Nei canali. Per esempio The Killing, The Bridge, The Office, per esempio Homeland, cominciano a essere un numero consistente, perché evidentemente in questa attenzione degli Stati Uniti per l'Europa non c'è solo la necessità di espandere a livello globale la concorrenza fra le loro stesse imprese televisive, certo, e quindi posizionarsi sui mercati internazionali, ma c'è un problema di stanchezza creativa. E cioè, quindi ci comprano le idee e ce le rivendono. E se sono più bravi a riformattarle, perché no? Però rimane il fatto che 20 anni, 25 anni di incentivi, di politiche dell'Unione Europea per creare un mercato europeo, se non hanno invertito il trend, hanno certamente aiutato a consolidare una proposta europea più forte sui mercati internazionali. Beh, più forte fino a un certo punto, nel senso che gli diamo le idee invece che dargli i prodotti. Non solo gli diamo le idee, gli diamo anche le aziende. Lei sa che hanno investito appunto 40 miliardi negli ultimi 4 anni in Europa e sono entrati in Gran Bretagna, in Scandinavia, in Francia, in Italia, crescendo sistematicamente su questi mercati. Senta, come operatori diretti. Idee europee, produzione americana. Come può l'Europa tutelare il proprio patrimonio, visto che le direttive europee sì, sono un po' servite, ma non così tanto nell'inversione dei mercati? Allora era giusta l'exception culturelle francese? Diciamo che l'exception culturelle francese è semplicemente un po' più pesante della politica delle quote che l'Unione Europea ha lanciato nell'89. In Francia le quote sono al 70% invece che al 50%. Cioè le quote minimo, per i nostri ascoltatori, sì, vuol le dire quote, le quote minime di programmazione di fiction che ogni televisione europea, pubblica o privata, deve mandare in onda e deve essere di produzione nazionale, europea o nazionale. Europea o nazionale. Certo. Beh sì, la Francia resiste, perché la Francia comunque ha un sistema in equilibrio che le permette di imporre alcune regole. E gli inglesi che cosa hanno fatto invece? Gli inglesi hanno fatto una politica diversa, cioè si sono difesi attaccando, sono andati negli Stati Uniti. È il caso anche di recente notazione di BBC America, che è partita già alcuni anni fa, è cresciuta lentamente sul mercato americano con le sue produzioni e nell'ultima settimana ha raggiunto un accordo con AMC, che è il grande canale American Movie Channel, quello che ha prodotto Breaking Bad, Mad Men per intenderci, grandi titoli di grande successo anche in Italia in questi anni, che ha comprato il 49% di BBC America e insieme all'acquisto, insieme a BBC America, svilupperà un progetto molto importante di penetrazione sulle reti cavo americane, sulle reti satellitari. Quindi la BBC è andata all'attacco. La BBC, lo ricordo, è il servizio pubblico inglese. Il servizio pubblico italiano su questo piano è assente completamente. Ha qualche difficoltà, direi che sul fronte internazionale è obiettivamente deficitaria la situazione del servizio pubblico italiano, che riesce a fare dei prodotti che poi colloca sul mercato internazionale, il solito esempio di Montalbano, ma non ha la massa critica per poter diventare un protagonista di questo mercato. Ecco, Netflix è la piattaforma che permette di vedere film e serie TV on demand e ha rivoluzionato il modo di vedere e di fare la televisione. Uno per tutti ha prodotto un successo mondiale con House of Cards. È il nuovo modo di fare televisione, cioè produttori e distributori insieme? Ma direi che è sicuramente il nuovo modo in questo frangente storico, è il modello vincente, ma non direi tanto produttori e distributori, loro sono diventati produttori per garantirsi la possibilità di alimentare l'offerta, certo, perché avendo una quantità di offerta così enorme non è sufficiente quello che riescono ad acquistare sul mercato dei diritti e poi quelli che gli vendono i diritti sono tutti potenziali competitori e conseguentemente corrono il rischio di trovarsi e quindi si devono garantire, perché improvvisamente potrebbe non vendere più il prodotto. Esatto. Netflix è sbarcato in Francia, dovrebbe arrivare in Germania, in Italia niente? In Italia si sa che ci ha dato un'occhiata, ma ci sono due problemi di fondo. Una è la scarsa estensione, diciamo, della lingua italiana come mercato, no? Devono fare un grosso investimento di edizione, ma soprattutto il problema sono le reti di telecomunicazioni. In Italia è molto indietro da questo punto di vista, la penetrazione della larga banda, quella vera, quella che serve ad avere poi un servizio come Netflix, è ancora molto bassa. So che stanno parlando con Telecom, ma ho l'impressione che prima di 2 o 3 anni non se ne parli, insomma. Mix 24. Genite inattaccable pour éviter l'insupportable avant la haine, avant les coups de sifflet ou de fouet, avant la peine et le dégoût. Brisons-la s'il te plaît. Je t'embrasse et ça passe, tu vois bien. Era aperta la metropolitana malgrado la pioggia, Pietrangelo? Aperta. Circondato da pioggia ovunque. Ingresso della metropolitana, le strade, le facce, tutte bagnate. Ed era appunto quella di stamattina, una favola di impermeabili e lampioni. Sai come quando vanno incontro al giorno e negli impermeabili, nei lampioni vogliono cedere neppure una fetta di luce alla pioggia che non sia canzone, sussurro e abbraccio. E che non sia appunto questa canzone, perché ho visto due che si erano persi e che si erano ritrovati e stavano dalle sponde opposte di quello che non era un fiume, ma solo una strada separata dai marciapiedi, e tutta quell'acqua in mezzo faceva sì che diventasse un fiume improvviso, dove stavano fermi quando improvvisamente lui si muove e va verso di lei, se la prende e se la porta via, perché si fa così, si fa così. E solo così si fa. Su questa canzone da Tardelese innamorata di Buttafuoco. Mario, tocca a te recuperare con le bolle, va? Sì, un po' di realtà, va bene. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. Allora, Liza Minnelli, Mani, bene, perché? Perché ci occupiamo del Lussemburgo, luogo magico, luogo fatato. Cari ascoltatori, mamma mia, sono usciti i dati sugli accordi fiscali individuali di centinaia, diciamo, di grandi corporation, più o meno grandi. Ce ne sono anche di italiane, adesso occorrerà fare un piccolo approfondimento su questo, non sono poche. E cosa facevano? Andavano in Lussemburgo per pagare meno tasse. Tutto legale, eh? Non è che stiamo parlando di... Però, insomma, siamo nel campo tra la legalità, l'illusione... La Lussemburgo, zona grigia. Lussemburgo, sotto questo profilo, ricordo sempre che secondo il Financial Secrecy Index è il secondo stato del mondo che sta sul podio per opacità dopo la Svizzera. Segnalo solo una cosa, la segnalo a chi governa, a Matteo Renzi, all'Unione Europea. Chi era il capo del Granducato fino all'altro ieri? E chi era? Jean-Claude Juncker. Ah! Che, quindi, diciamo, sotto il suo regno si facevano questi splendidi accordi. Però nessuno va a vedere, gli dice niente. Bene. È straordinario. Fa le pulci al bilancio italiano e poi però lavorava per far pagare meno tasse agli altri. È davvero molto interessante. Hai visto? La coltre dei piritolli non indaga. No, mai. Sai, mai. Le schiere del giornalismo, la schiena dritta. Sì, sì, sai chi l'ha scritto qualche settimana fa, vero? Io. Basta. Vai. Senza benzina o gasolina. Soltanto un litro in cambio ti do. Allora. Cristina. Vabbè, in cambio da Cristina. Noi diciamo che qua la situazione è interessante sempre di più per il nostro amico Vladimir Putin, perché vi ricordate quel tubo che doveva passare in Ungheria, certo, l'opposizione dell'Europa, tutti, non devi far passare il tubo di Gazprom là perché l'Europa fieramente si oppone, insomma giù minacce agli ungheresi, al il famoso totalitarismo di Budapest che sembrava un nuovo fascismo, eccetera. Bene, l'Ungheria ha dato il via libera al passaggio del gasdotto di Gazprom e allora Putin ha tutto gas. E raccogliere il nostro zar! Buongiorno, cadetti! Siate i benvenuti sul cammino glorioso Salamino e farà di volere lì. Tutto si fa per la donna, sempre. Ma tutto perfino in un ambito che poi risulta sgradevole, volgare, e che potrebbe anche aprire una discussione su questo modo di raccontare la donna, di accostarsi alla donna. Non vogliamo citare il bardo, quello splendido verso piano, toccatela piano perché fu donna. Allora succede che chi? Il settimanale di Alfonso Signorini pubblica una sequenza di foto di Marianna Madia, ministro Madia, impegnata in una vicenda innocente, privata, personale, che è quella di prendere un gelato. Allora la didascalia è allusiva e volgare, e ci si chiede, e lui stesso Signorini si difende dicendo perché il gelato no e il calippo sì. Si apre tutta una discussione sul fatto che comunque il calippo fu una scelta volontaria, fu quella di fare uno spot volutamente allusivo. Il gelato è un fatto privato, ma qui io vorrei chiedere il vostro aiuto. Io penso che tu hai ragione, hai avuto ragione ieri sera, dalla Gruber, quando hai detto che la Madia doveva semplicemente dire a Signorini: io ti voglio prendere a schiaffi. O comunque farlo il marito. O il marito. Vabbè. Secondo me basta anche la Madia. No, perché... però poi c'è un altro fatto. Ai tempi le ministre di destra venivano trattate né più e né meno che come donnacce. Ma infatti, credo vero che quello sarebbe il punto centrale della questione. Non è che era giusto. Era sbagliato anche allora. Era sbagliata allora, certo, però c'era un silenzio totale. Vabbè, sai tu come funziona, no? Giornalismo funziona a corrente alternata. Esatto. Ecco, comunque che le prendessero schiaffi tutte, di destra, di sinistra, esatto, pigliassero schiaffi i giornali e i giornalisti. E allora che fanno questo, sarebbe una buona cosa. Ancora una volta il verso di Shakespeare: piano, toccatela piano, perché fu donna. E questa bellissima canzone di Gorny Kramer. Per un sorriso, che è un sì, la la la, no, la la la. Sara è in agguato in regia. Su cosa oggi, Quota Rosa? Volevo dirvi questo. I TG e i giornali, ieri, ma anche stamattina, hanno conservato tutti uno spazietto per dire che Amanda Knox, famosa per l'omicidio Meredith, è diventata giornalista per il West Seattle Weekly. Ma io credo che nessuno abbia notato la vera notizia, Giovanni. Qual era la vera notizia? Ma come? Che una 27enne che vuole fare la giornalista trova un lavoro e in America viene pure assunta da un giornale. Tuo palo americano, americano, americano, scende a me chi tu papà. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu a palloro che roll, tu gioca a baseball. Insomma, la notizia è che in America assumono ancora. Mix 24. Salamino. Ecco, è l'inno degli arditi. giusto per raccontare la guerra dei nostri nonni. È il libro di Aldo Cazzullo, già primo in classifica tra i libri più venduti, e con noi al telefono. Buongiorno Cazzullo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie, buongiorno ancora. Possiamo considerare la Prima Guerra Mondiale, nella sua memoria, nel ricordo, nel suo racconto, l'unico patrimonio condiviso di tutti gli italiani? Io direi di sì. Come noto, la Resistenza fu una guerra civile in cui lei ed io, Buttafuoco, avremmo militato solamente su fronti avversi. Il Risorgimento ha lasciato anche delle vittime, fu seguito da una guerra civile al sud, le cui ferite non sono ancora sanate. Sul Piave tutti gli italiani hanno fermato gli austriaci. Il Piave fu considerato dalla generazione dei nostri nonni il loro capolavoro. Non ne parlavano volentieri, però dentro di loro quell'orgoglio se lo portavano dentro. E perché questo libro coinvolge tutti oggi, che è il 2014? Beh, perché la storia delle nostre famiglie incrocia la storia nazionale. Ho aperto una pagina Facebook per chiedere ai lettori: raccontatemi la storia dei vostri nonni nella Grande Guerra. Ho ricevuto tantissime mail, tra cui molte da donne. Le ragazze più giovani mi raccontavano storie della Seconda Guerra Mondiale. Le persone della nostra età in su hanno raccontato storie della Grande Guerra, alcune bellissime che ho messo nel libro, altre normali, ma tutti dicevano: vorrei che lei parlasse di mio nonno, non perché fosse un eroe, ma perché era una brava persona, amava l'Italia, credeva nell'Italia, non si riconoscerebbe nell'Italia di oggi. E questo mi ha molto sentito, perché è segno che in fondo questo legame con la patria è più forte di quello che pensiamo. Per il senso dello Stato dovremmo attendere altri 100 anni almeno, ma il legame con l'Italia ce l'abbiamo più di quello che pensiamo di avere. Cazzullo ha usato la parola patria. È una parola che secondo me gli italiani sentono molto, e gli italiani in particolare, forse più non tanto come nazione conquistatrice quanto come terra dei padri in senso etimologico. E in ogni famiglia c'è una persona che ha contribuito a fare la storia dell'Italia, nelle guerre, nella ricostruzione, una memoria spesso confermata da cimeli, ritratti, fotografie, lettere, sono molte lettere raccolte nel libro, e spesso sono le donne a custodire questo frammento di memoria nazionale che ogni famiglia custodisce. Grazie, un po' di politicamente scorretto, anche se della Prima Guerra Mondiale, ancora un accenno dell'Inno degli Arditi. Grazie Cazzullo. Grazie Buttafuoco, un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Mario, ancora una bolla? Sì, una bolla. Pat Metheny questo, è fantastico, Last Train Home. Allora, è un treno, Giovanni, neppure la Germania è quella di una volta. 20.000 ferrovieri stanno scioperando da 4 giorni in Germania. Ti ricorda qualcosa? Non male. Allora, è il più lungo sciopero della loro storia. Cosa vogliono? L'aumento della paga del 5% e meno ore di lavoro. Quindi insomma, alla fine, in qualche maniera, non siamo tutti uguali, ma però insomma ci assomigliamo abbastanza. È un po' paese. Pietrangelo, ce l'abbiamo il canzoniere? Ce l'abbiamo. La sua vertute cancide sansira, pregate il che mi laghi venir pui. Ed io vi dico degli modi sui, cotanto intende quanto l'om sospira. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Vediamo se qualcuno ci chiama. Intanto oggi raccontiamo la storia di un'altra televisione. La televisione è una televisione brillante, bella, scintillante, quella di Antonello Falqui, il grande regista degli indimenticabili varietà della RAI. Regia di Antonello Falqui, sentire proprio questa formula, regia di Antonello Falqui, è come come dire, un viatico per il divertimento, per una serata piacevole. Per me Bimbo era l'occasione di assistere ad uno show godibile, piacevole, pieno anche di signorine, per cui diciamo, per me Falco è anche sinonimo di qualcosa di pruriginoso. La notte piccola per noi, troppo piccolina. Era l'attore Sergio Rubini, la storia, lo ripeto, di Antonello Falqui, ma c'è una bolla ancora? Montezemolo è diventato presidente di Alitalia. Oggi? Adesso? Adesso. Quindi i voli sono puntuali. I voli... deleghe, sappiamo le deleghe. I voli hanno la pochette per andare nelle isole. Noi comunque lo abbiamo tantissime reazioni fra i nostri ascoltatori in difesa della Madia. Qualcuno attacca, certo, il volgarissimo La Zanzara di ieri sera, che però io non ho sentito, quindi non so quale sia stata la volgarità di ieri sera. Intanto ricordo che avremo la storia di Antonello Falqui subito dopo il GR. Canzone. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai avuto mai, non bene così, a così grande.